Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Benvenuti dalle parti di Eclettica, e questo è il volume numero 5 di questa settimana, ma è solo il 2 a tutti gli effetti, perché i volumi si associano ai giorni della settimana, quindi questo è il volume del venerdì, ma abbiamo cominciato le trasmissioni per ovvi motivi, solo da ieri, giovedì, quindi solo volume 4, volume 5, che ritroverete disponibili anche in podcast. La prossima volta che la luna piena si leverà alta, a sud, prestate attenzione al suo margine destro e fate correre lo sguardo lungo la curvatura del disco. All'incirca dove la lancetta di un orologio segnerebbe le 2, noterete una macchia ovale, piccola e scura. Chiunque possieda una vista normale può individuarla abbastanza facilmente. Si tratta di quella pianura cinta da alti monti, una delle più suggestive della luna, nota come Mare Crisium. Il mare della crisi. Con i suoi 480 km di diametro e un anello pressoché ininterrotto di magnifiche montagne che lo proteggevano, non era mai stato esplorato finché non vi penetrammo con la nostra spedizione sul finire dell'estate del 1996. Questo era l'incipit della Sentinella di Arthur C. Clarke. Bones in my shoe, I I don't know, maybe we can just take Clara with us. To the future? As you reminded me, Marty, I'm a scientist, so I must be scientific about this. I caution you about disrupting the continuum for your own personal benefit, therefore I must do no less. We shall proceed as planned, and as soon as we return to 1985, we'll destroy this infernal machine. Traveling through time has become much too painful. Stay, I cannot pray you stay. I tend to be away. I try to find a scam, but you suggest that me. I never be afraid. I'm shooting, never turn. There's nothing. Dimostrazione di quanto sia cresciuta la scena italiana di questi ultimi anni, due gruppi dalla storia estremamente diversa, breve nel primo caso e invece molto più lunga nel secondo. I Joycat, che hanno aperto Eclettica con Shake Your Shape, e poi i Red Worms Farm, che invece hanno seguito con Beastie. In entrambi i casi si tratta di estratti dai loro ultimi album. Ora invece un album che ha qualche anno sulle spalle, infatti le feste natalizie sono l'occasione per rivedere persone che magari non si vedono da lungo tempo e conoscere quelle che sono state le loro esperienze, magari i loro ascolti, e scoprire dell'esistenza di un film del 2004, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, della grande colonna sonora in cui molti brani sono legati a David Bowie. Anzi, alcuni di questi brani sono reinterpretati in portoghese da un attore che interpreta la parte di un mozzo, almeno così mi è stato detto. Questo attore non è nient'altro che un cantante brasiliano che poi, partendo dall'esperienza di quel film, l'anno dopo, nel 2005, registra un intero album, The Life Aquatic Studio Sessions. Lui si chiama Seu Jorge e con la sua chitarra acustica reinterpreta solo canzoni di David Bowie. Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Às vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul pode ter vida em Marte. Então vem sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Come un gioiello scintillante, la città giaceva nel cuore del deserto. Una volta aveva conosciuto sviluppi e trasformazioni, ma ora il tempo scorreva senza alterarla. Il giorno e la notte si avvicendavano sul deserto. Nelle strade di Diaspar l'oscurità non scendeva mai. Le lunghe notti d'inverno potevano ben gelare il deserto, ricoprendolo di brina, ma la città non conosceva né il freddo né il caldo. Diaspar non aveva contatti col mondo esterno, era un universo a sé. In passato gli uomini avevano costruito città e alcune erano durate secoli, altre millenni, finché il tempo non ne aveva cancellato perfino i nomi. Solo Diaspar aveva sfidato l'eternità e si era difesa contro il logorio delle epoche e la decadenza. Questo era l'incipit de La città e le stelle di Arthur C. Clarke. Come to say goodbye. goodbye. Well, where are you going? I'm going away. Well, I'm afraid I'll never see you again. Damn it. Clara, I want you to know that I care about you deeply. But I realize that I don't belong here, and I have to go back where I came from. And where might that be? I can't tell you. Well, wherever you go, and take me with you. I can't, Clara. I wish it didn't have to be this way, but just believe me when I tell you that I'll never forget you, and that I love you. I don't understand what you're trying to say. Clara, I don't think there's any way that you can understand it. Please, Emmett, please, I have to know. If you sincerely do love me, then tell me the truth. All right, then. I'm from the future. I came here in a time machine that I invented, and tomorrow I have to go back to the year 1985. I do understand. I understand because you know I'm partial to the writings of Jules Verne. You concocted those mendacities in order to take advantage of me. Oh, I've heard some whoppers in my day, but the fact that you'd expect me to entertain a notion like that is so insulting and degrading. All you had to say is I don't love you and I don't want to see you anymore. That at least would have been respectful.